The only thing I can tell you is that there is... L'unica cosa che posso dire riguardo ad Alitalia è che non c'è nulla sul tavolo. Tre mesi fa siamo stati esclusi dall'asta. Da fine dicembre siamo stati eliminati da qualunque negoziato. Probabilmente è un peccato per il venditore, ma le cose stanno così. Tutto quello che posso ribadire, quindi, è che non c'è nulla sul tavolo.